Qual è la parte più avanzata vicino a quel capannone di demolizione auto? Se si è riaccesa una fiamma, ne ho fatto già uno di lancio. Ok, con Roma è a posto. Com'è? Con Roma sei a posto. Grazie. Un attimo per Bosa. C'è molto fumo qua già, un attimo solo. Conteniamo, conteniamo, si accende ogni tanto, io ho paura che non sia, non abbia continuità, qualcosa salta e lo riaccende in più punti. Però riusciamo a contenerlo grazie alla strada. Per adesso ci sono anche le squadre pronte. Sono sulla strada qua di fronte a te quasi, eh? Avanti Giorgio. Non ti ho capito, scusa. No, ho copiato, dimmi pure. C'è Marcello. Tu hai Marcello, scusa, io sono Lorenzo Maciuccu, perché? Non vedo niente. Sari, buon pomeriggio dal Superfuma. Se qualcuno ci sente, siamo a 5 minuti all'atterraggio. Ciao, ciao, sei Anela? Ciao. Ok, a 5 primi. Allora, Tor, nelle vicinanze della, dove c'è un grande start in traffico, l'abbiamo bloccato, è libero di potersi atterrare qua. Avanti Elianella da Tor. Stava rispondendo il forestale. Sì, lo sento ancora tratti, ancora due primi, poi abbiamo un contatto radio fisso. 140. No, passo lì, da Tor, buon pomeriggio. Avanti Elianella. Guarda che stanno chiamando da Tor, Non li sento ancora, guarda, sono ancora lontani. Stai allontanando, sei passato sopra e sto allontanando. Ma non è prima, andiamo a fare, stavo da Torrini, ma lì dove c'è quel tubo nero, giusto? Certo. Sono bello proprio ore 12. Mi vedi tu a me? Sono stato proprio sul posto, nell'incrocio delle strade, credo. Sì, dottor Mutone, adesso farlo atterrare lì, Tor. Dottor Benito sta salidato, adesso abbiamo contatto radio. Ok, abbiamo 2 minuti da fare radio. Ok, copiato, sento del portale. Fatti che va bene Marco? Copiato, facciamo un giro attorno per la qualche ripresa e poi veniamo giù. Grazie mille, copiato. E se vediamo l'atterraggio sull'incrocio. Copiato. Drago. Avanti Drago. Sì, c'è in vista, noi siamo qui avanti davanti a te. Dovremmo andare giù di la penna. Siete vista, perfetto. Ok, grazie. Copiato, ok. Elianella, tu sei pronto per decolare? Sono dietro te, aspettando il posto. Vai tranquillo in avanti, io sono 200 metri dietro e più in alto. Ok, allora posso decolare? Tranquillo, vai. Nostra torre, sassi da torre. Buongiorno. Sì, il torre decolla. Funzionario. Sei volo che ha un'idea della la situazione e poi ci raccordiamo. Ok, allora visto che sono già arrivato al pescaggio, faccio la prima vena, sono tornato e facciamo questa nuova. Comunque noi abbiamo un ordine di tenere solo sulla vegetazione e non sui rifiuti. Allora il problema è che noi già abbiamo una situazione. Ok, chiedo per cortesia anche di coordinare con il nostro. Il comandante del Tor, dell'elicottero tirante. Sì, allora a questo punto faccia la vegetazione e va bene così. Scoppiato. Anela decolando. Bacio da Drago 144. Avanti Drago 144. E noi il 149-400. Elianella da Tor. Stai chiamando i trasportati? No, volevo sentire qualcuno. Noi abbiamo adesso pescato lì in costa dove c'è l'acqua non ideale. C'è l'altro in costa proprio vicina? Questo devo informarvi, adesso lo proviamo a chiedere. Vediamo un po'. Ok, avanti forse la terra da to'. Ok, ma comunque noi dovevamo stare sopra quel fumo. Nel vero non possiamo entrare questa volta, purtroppo. Ok, perfetto. Ok, quindi dove c'è il palo della luce lì in quella zona, giusto? Ok, l'ho visto. Adesso mi metto contro vento e posso rientro proprio vicino al fumo. Ok. No, grazie, nessun problema. Poi c'è il superfumo che continua a operare, se abbiamo capito bene. prima del lancio, va bene? Vostro regolante, via. Che posizione che prendete? Alfa, il canale 21, un primo lancio. Ho copiato il canale 21. Canale Tiger 21, Victor Foxtrot 18 Alfa, lancio buono, state a... Ok, 18 Alfa, 18 Alfa, Canadair 21. Canadair 21, Victor Foxtrot 18 Alfa, è in ascolto. Ok, 18 Alfa, una cortesia, noi siamo un primo lancio, se potreste avvertire la capitaneria di porto, magari con una telefonata che facciamo qua davanti a Platamona. Non abbiamo necessità di ausilio, cioè riusciamo a separarci in autonomia. Confermo. Canadair 21, 30 secondi al lancio. 18 Alfa. Secondo, Canadair 21, nel porto. Canadair 21, 18 Alfa. Sarà il 21, 18 Alfa. Purtroppo non ci possiamo abbassare di più a causa di quel palo dell'illuminazione. Sì, la cercando sulla traiettoria di uscita. 18 Alfa, il cambio 21, un minuto al lancio. Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo, avevamo copiato. Lancio, cambio. Farà il cambio 21. Un minuto al lancio, il canale 21, 18 Alfa. No, zona libera, lancio approvato. Vito, posto, trovato un moto alfa, lancio buono. Ok. Non lo so, guarda, con questa percentuale sto utilizzando una percentuale molto alta. Alfa, lancio buono, lancio di nuovo, primo lancio. Farà Canadair 21. Un minuto al lancio il Canada 21 18 Alfa. Canada 1 18 Alfa, lancio buono, riportate un minuto. Ora Canada 21. Un minuto al lancio per il Canada 21. 1 18 Alfa. Ok, 18 Alfa. Farà Canada 21, 18 Alfa. 18 Alfa, il Canada 21, un minuto al lancio.